Tu dormi, io veglio alla tempesta e al vento. Sulla marmorea pietra di tua porta. Tu dormi, io veglio e sto sempre in tormento. E l'anima ed il cuore da me scampò. Tu dormi, io veglio e con amaro accento ogni or chiamo pietà che per me è morta. Tu dormi, io veglio e poi in un sol momento di lacrime e di pianto io qui divampo. Tu dormi, io veglio con grave tormento. Ne trovo il mio penar, chi me conforta. Tu dormi, io veglio e solo mi lamento di vita vo soffrir tutto l'inciampo. Tu dormi riposata senza affanno e gli occhi miei serrati mai non stanno. Tu dormi ed io crudelamente ploro. E moro, ahimè, ch'io moro, ahimè, ch'io moro.